Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori ed eccoci nuovamente a questo nostro appuntamento mensile con la parola di Dio. Come sapete, la nostra conversazione porta il titolo La tua parola mi fa vivere. E già nel titolo sono in qualche modo racchiusi gli obiettivi di questa nostra conversazione, cioè il primo obiettivo è proprio quello di rendere la parola una realtà, una persona, un volto che incontra la nostra vita e proprio questo mette linfa nuova nella nostra esistenza. Il secondo obiettivo è quello di percorrere dei testi della scrittura per intero, lasciandoci proprio guidare dallo stile narrativo degli autori sacri. Per alcuni anni sapete che abbiamo letto per intero il Vangelo di Marco e dopo il Vangelo di Marco abbiamo cominciato la lettura estesa di tutti gli Atti degli Apostoli. Ecco, nel nostro percorso noi siamo arrivati quest'oggi al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, che spero in questa nostra puntata, nella puntata di questa sera, di leggerlo e commentarlo insieme a voi per intero. Proprio per la caratteristica di questo capitolo, che è un capitolo molto unitario al suo interno, questa sera abbiamo pensato di non interrompere la spiegazione del testo con delle domande, quindi questa sera sarà la conversazione sarà abbastanza unilaterale, anche se lascerò a ciascuno di voi ascoltatori un piccolo impegno che possiamo prendere anche come impegno di preparazione a questa quaresima, che è quello di rileggere poi personalmente il capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, cercando di meditare su quella che è stata l'esperienza che di Cristo ha fatto l'Apostolo Paolo. Penso che questo possa essere davvero un piccolo esercizio quaresimale che ci prepara a vivere insieme la Pasqua. Bene, detto questo, invoco insieme a voi il dono dello Spirito Santo, cosciente che senza lo Spirito davvero la parola rimane qualcosa di arido che rischia di rimanere solo fermo alla nostra testa, mentre lo Spirito ci aiuta a dischiudere la vitalità della parola e ci introduciamo riprendendo proprio la lettura degli Atti degli Apostoli. Sapete, i rabbini dicono che ogni parola della scrittura ha 70 livelli di lettura. E proprio per questo, per andare nel livello più profondo, che è il 70° livello della parola, lì dove sgorga la sorgente di acqua viva, dobbiamo essere accompagnati dal maestro interiore per eccellenza. Il maestro interiore per eccellenza è proprio lo Spirito di Dio. Quindi chiediamo allo Spirito di assisterci e a Maria, nostra madre, di intercedere per noi lungo questa ora poco più che condivideremo insieme. Iniziamo quindi con la lettura del capitolo 26 degli Atti degli Apostoli. Chiedo a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di tenerlo aperto davanti a sé. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, fatto cenno con la mano, si difese così: mi considero fortunato, o re Agrippa, di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui vengo accusato dai giudei davanti a te, che conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. Ecco, la prima sezione di questo capitolo che potremmo paragonare a una grande menorah, cioè a un candelabro a sette braccia, è un capitolo che noi potremmo dividere in sette parti, ognuna delle quali aggiunge un pezzetto di luce all'esperienza che di Cristo Paolo ha fatto. Bene, questo ipotetico e immaginario candelabro a sette braccia inizia con l'introduzione di Paolo. Dove si trova Paolo? Sappiamo che Paolo si trova in carcere a Cesarea, ha già trascorso 2 anni di carcere, si trova ancora lì senza che sia stato emesso nessun giudizio a suo favore o contro di lui, perché nel frattempo c'è stato il cambio di procuratore. Praticamente dal procuratore Felice si è passato al procuratore Felice, viceversa, scusate, e vedendo che la situazione non si risolveva, il procuratore cosa ha suggerito? Ha suggerito a Paolo di essere giudicato nuovamente a Gerusalemme. Siccome dietro questo suggerimento c'era comunque un tranello, cioè il fatto che i giudei avrebbero approfittato del trasferimento per assalire Paolo e per ucciderlo lungo il viaggio, lungo il trasferimento di andata o di ritorno, Paolo si difende facendo appello all'imperatore. Quindi Festo si trova nella situazione di dover scrivere una lettera all'imperatore in cui giustifica perché manda Paolo. Paolo è cittadino romano, quindi essendo cittadino romano lui può, prima di un verdetto, fare appello all'imperatore, cioè chiedere che la sua causa venisse consegnata, venisse giudicata dal massimo giudizio che era previsto dall'imperatore. Aveva diritto di fare questo, quindi di appellarsi e di essere giudicato a Roma. Quindi Festo gli concede questo, però si trova nella difficoltà di non sapere cosa scrivere, perché gli sembra che quest'uomo, per quanto abbia tanti motivi di contestazione da parte dei giudei, però non abbia nessun motivo così grave da essere mandato dall'imperatore di Roma. Quindi prende occasione Festo dalla visita di un re, del re Agrippa con la sorella Berenice, per ascoltare Paolo. Quindi lo fa convocare davanti al re, a Berenice, a tutti quelli che lo seguono, si siedono davanti al tribunale locale, che è il tribunale che raccoglie le persone più nobili che tessono il dialogo con Roma. Ovviamente i giudei non sono presenti in questo tribunale, e danno la possibilità a Paolo di difendersi. Abbiamo ascoltato in questi primi 3 versetti, in questo primo braccio di questa menorà simbolica, che Paolo richiama tutto ciò di cui viene accusato. Ora, quali erano i capi di accusa? I capi di accusa erano emersi bene al capitolo 25, dove Paolo, parlando a propria difesa, aveva detto: io non ho commesso colpa alcuna né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Quindi quel versetto ci aveva detto quali sono i capi di imputazione che i giudei portano contro Paolo. Il primo è contro la legge, il secondo è contro il Tempio, il terzo è contro Cesare. Di che cosa quindi Paolo concretamente veniva accusato? La prima accusa era quella di relativizzare la legge. Noi sappiamo che nella predicazione di Paolo, sottolineando che la salvezza ci viene da Cristo, relativizzava, ma non annullava, relativizzava alcuni elementi fondamentali della legge ebraica. Pensiamo ad esempio al tema della circoncisione o alle questioni di purità legate alle carni immolate agli idoli. Sappiamo che nelle comunità cristiane già questi insegnamenti di Paolo avevano suscitato, per alcuni ambiti un pochino più conservatori, delle problematicità. Ora, i giudei prendono la palla al balzo e enfatizzano questi elementi facendo di Paolo uno contrario alla legge. Di fatto Paolo non è contrario alla legge, cerca di mettere in evidenza l'anima vitale della legge, che non è l'osservanza pedissequa di alcune mitzvot, di alcune normative, di alcuni decreti, ma il vivere nella dimensione vitale che la legge porta racchiusa dentro di sé. Seconda accusa riguarda il Tempio. Come mai Paolo viene accusato dai giudei di essere contrario al Tempio. Perché Paolo, anche su questo punto di vista, aveva portato una forte innovazione all'interno delle nuove comunità da lui fondate. Le nuove comunità da lui fondate avevano come punto di riferimento Cristo, non più un edificio sacro, e dove le comunità cristiane facevano memoria di Cristo, all'interno delle case. Nella casa i rapporti sociali erano praticamente tutti equiparati l'uno all'altro, non c'è più, dirà ai Corinzi e dirà ai Galati, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, cioè all'interno di una casa, al centro della quale viene vissuta la memoria di Cristo, tutte le persone hanno una medesima dignità, pur svolgendo dei servizi diversi. E il luogo identitario della comunità cristiana non è la sinagoga, non è il Tempio, non sono le feste di pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme, ma è la memoria della persona di Gesù. Ora, capite che tutto questo relativizza il Tempio, e ciò molto prima che il Tempio venisse distrutto. Noi siamo all'inizio degli anni, fine anni 50, inizio anni 60, siamo in questo periodo delicato. Il Tempio sta per essere agli ultimi dettagli della sua costruzione, sta per essere finito, e sappiamo che il Tempio vivrà pochissimo, perché nel 70 d.C. viene completamente distrutto dalle truppe romane. Ora, quindi, è un momento in cui il Tempio ha anche una sua importanza simbolica all'interno, non solo simbolica ma anche religiosa, rituale all'interno del popolo di Israele, che finalmente è riuscito a terminare una delle grandi meraviglie del mondo, una delle sette meraviglie del mondo. Sono gli anni in cui questo è finito. Bene, Paolo sta portando una visione delle cose dove non è l'edificio l'elemento principale, ma ciò di cui l'edificio è espressione. Ecco perché viene contestato come uno che è contro il Tempio. E poi c'è il terzo aspetto, Paolo viene dichiarato contro Cesare. Perché Paolo viene dichiarato contro Cesare? Il motivo è sempre quello, cioè per un credente, come dice Gesù stesso nel Vangelo, un credente in Cristo dà a Cesare ciò che è di Cesare, ma dà a Dio ciò che è di Dio. Sa che la sua immagine e somiglianza principale è quella che gli viene data da Dio. Da Dio riceve il flusso della vita, da Dio riceve la legge, la Torah, da Dio riceve la grazia, da Dio riceve il perdono, e sono tutti quei benefici che nessuno può più togliere. Quindi ogni potere umano viene relativizzato. Non dimentichiamo che è sempre Paolo nelle sue lettere che per primo attribuisce a Gesù il titolo di Kyrios, Signore, che era un titolo riservato all'imperatore. Ora, questo non significa annullare la persona dell'imperatore, la persona di Cesare. In altri passaggi Paolo inviterà a pregare per le autorità civili perché sappiano gestire il popolo con sapienza e giustizia. Però chiaramente sono figure relativizzate sempre alla priorità di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito. Quindi Paolo inizia la sua difesa dicendo al re Agrippa: guarda, io sono fortunato, mi considero fortunato di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui vengo accusato dai giudei. Quindi Paolo si difenderà su questi tre fronti: la legge, il Tempio e le accuse contro Cesare. Ovviamente il suo discorso inizia con una captatio benevolentiae, cioè cercando di attirare la benevolenza degli ascoltatori, quindi di Agrippa, della sorella Berenice e del procuratore Festo, attorno a quello che lui dirà. E non a caso saluta Agrippa dicendo: so che tu conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i giudei. Di che Agrippa si tratta in questo caso? Cioè, l'Agrippa in questione è Agrippa II, che era il figlio di Erode Agrippa I, era stato educato a Roma e nel 50 era divenuto re di un piccolo regno che corrisponde più o meno al Libano attuale. E poi, siccome era sempre stato fedele all'imperatore romano di turno, Agrippa II aveva in sé una furbizia particolare, cioè riusciva a farsi amico quello che poi sarebbe diventato l'imperatore. E quindi ogni volta colui che diventava imperatore, in segno di gratitudine per la fedeltà che gli era manifestata da Agrippa, gli aggiungeva dei pezzi di regno, e il suo regno era sempre andato estendendosi. Anche durante il periodo in cui era imperatore Caligola, Agrippa II riuscì a placare un attimo gli animi dei giudei che volevano indire una sommossa nei confronti dell'imperatore Caligola, e quello fu uno dei momenti in cui Agrippa II passò agli onori delle cronache dell'impero romano. Quindi era una persona che davvero era vista molto molto bene a Roma, difendersi davanti a lui era significativo. Tra l'altro conosceva molto bene, perché apparteneva alla dinastia erodiana, la situazione della regione, era uno che dialogava con le autorità giudaiche e, se gli era possibile, le accontentava pure, perché cercava di tenere comunque il piede in due scarpe per mantenere un equilibrio nella regione, che era comunque una regione sempre un pochino infuocata. Quindi vedete come gli inizi di questo capitolo 26 degli Atti degli Apostoli già ci portano in qualche misura in un contesto molto particolare per l'Apostolo Paolo. Paolo si può difendere davanti a persone che capiscono quello che lui vuole dire, davanti a persone che capiscono le questioni romane e le questioni ebraiche, e in un contesto totalmente pagano. Vediamo come inizia la sua difesa, e allora continuiamo la lettura ascoltando i versetti dal 4 all'8. La mia vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei connazionali a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono darne testimonianza, che come fariseo sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione. E ora sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. A motivo di questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché fra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? Allora, vedete che la prima risposta che Paolo dà è la risposta alle accuse secondo le quali lui sarebbe contro la legge e contro il Tempio. E Paolo dice: io non sono contro la legge e neanche contro il Tempio, perché io fin dalla giovinezza sono vissuto tra i miei connazionali. La mia vita la conoscono tutti i giudei, e io ho vissuto come fariseo nella setta più rigida della nostra religione. Cioè, lui rievoca la sua formazione, che sappiamo iniziò a Tarso e continuò a Gerusalemme, nella setta più rigida dei farisei, cioè di coloro che sono dediti alla legge. Sono legati anche al Tempio, però la priorità è l'osservanza della Torah orale, cioè della legge scritta e della legge orale. Non è l'unico caso in cui Paolo fa riferimento al suo passato. Noi abbiamo la testimonianza di Paolo circa il suo passato anche in altri passaggi. Pensiamo ad esempio alla lettera ai Romani. Ci sono 3 capitoli nella lettera ai Romani, il capitolo dal 9 all'11, in cui Paolo manifesta il suo amore per il popolo di Israele. Perché? Perché è cresciuto in mezzo a quel popolo, è stato formato da quel popolo, e in quel popolo lui non lo rinnegherà mai, mai lo rinnegherà. E questo è fondamentale saperlo, no? Anche per chi vive delle conversioni forti. Dio non butta mai via nulla della nostra vita, nulla. Tutto viene semplicemente trasfigurato e valorizzato. Paolo non smette di essere ebreo quando incontra il Cristo, ma vede nel Cristo il compimento, come dice in questi versetti, di quella speranza e di quella promessa fatta da Dio ai padri. Nulla viene buttato via. È molto bello, no? Quando Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 9, dirà: ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua, perché vorrei essere io stesso anatema, cioè separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini secondo la carne. Paolo chiama gli ebrei, continua a chiamarli fratelli e consanguinei secondo la carne, sono i suoi fratelli e restano tali. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto e le promesse. Sette doni. Per dire, tutti questi doni, non è che io li butto via, sono tutti doni che ricevono la loro pienezza in Cristo, nel dono di Cristo. La stessa cosa la dirà alla seconda lettera ai Corinzi. Se andiamo al capitolo 11, il versetto 22, Paolo, rievocando il suo passato, dice: sono ebrei, ma lo sono anch'io, sono israeliti, lo sono anch'io, sono stirpe di Abramo, lo sono anch'io, sono ministri di Cristo, sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, cioè quelle che sono le caratteristiche dell'ebreo, Paolo non le butta via, lo considera una ricchezza. A conferma di ciò possiamo riprendere anche un altro passaggio, che è il passaggio della lettera ai Filippesi, al capitolo 3, no? Dove Paolo dice, facendo riferimento in questo caso alla circoncisione, nei versetti da 3 a 6, dice: i veri circoncisi siamo noi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù. Se qualcuno ritiene di poter aver fiducia nella carne, io più di lui, circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio da ebrei, e quanto alla legge, fariseo. Vedete, Paolo ogni volta che si trova in un contesto che cerca di screditare la sua ebraicità, la tira fuori difendendola, sottolineando che questo aspetto per lui è importante, anche se ribadisce che senza Cristo tutti questi doni non avrebbero raggiunto la luminosità. E qui Paolo si avvicina molto alla riflessione che noi troviamo nella lettera agli ebrei. Se voi avete il tempo di leggere un capitolo solo della lettera agli ebrei, il capitolo 11, che è un capitolo stupendo, no? Vedrete che nel capitolo 11 della lettera agli ebrei c'è un lungo elenco dei grandi testimoni della fede, eh? Cioè l'autore della lettera agli ebrei, ripercorrendo la storia della salvezza, vede come modello di fede nella storia della salvezza possono essere citati Abele, Enoch, Noè, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, i nomi sono tantissimi. Poi alla fine di questo capitolo dice: e che dirò ancora, mi manca il tempo di nominare tutti, e cita ancora Gedeone, Barak, Sansone, Jeste, i profeti, quanti hanno donato la vita, quindi tutte persone che sono degli ebrei doc, tutte persone che hanno vissuto secondo i principi della legge e del Tempio. Però conclude dicendo: tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non hanno ottenuto ciò che era stato loro promesso. Dio infatti aveva predisposto qualcosa di meglio affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Cioè, cosa vuol dire l'autore della lettera agli ebrei? Tu puoi avere la fede di questo mondo, puoi osservare con la tua forza di volontà tutte le mitzvot di questo mondo, puoi celebrare al Tempio tutti i riti di questo mondo, ma se non incontri Cristo, tu non raggiungi il compimento. Solo in Cristo la luminosità di tutti i doni che hai ricevuto risplende in pienezza. Ecco allora che Paolo, in questo secondo braccio, no, di questa simbolica menorah, dove inizia la sua difesa, dice: Cari Agrippa e caro Festo, non è questione di tempio, di legge o di Cesare. La questione di fondo, io sono qui perché sono accusato per la promessa fatta da Dio ai nostri padri, che si è realizzata in Cristo. E poi pone la domanda di fondo, perché uno non deve credere, considera incredibile, che Dio, che è il Dio della vita, ha la forza di risuscitare i morti e che quindi ha restituito la vita per sempre a Gesù, facendolo Signore, manifestatore, manifestazione di Dio sulla terra. Il punto è la fede in Cristo, questo è l'elemento centrale, dice Paolo, di cui io vengo accusato e che è l'elemento centrale del mio annuncio. Vedete, quindi, dopo il primo braccio di questa simbolica menorah, di questo candelabro a sette braccia, dove Paolo fa un'introduzione, il secondo mette subito a fuoco qual è il punto della questione. Il punto della questione è la fede in Cristo. Lasciamo ora un breve stacco musicale, in modo da darvi la possibilità di rileggere questi primi sette versetti, dove abbiamo un po' concretizzato le prime due braccia di questa simbolica menorah, dopodiché continueremo nella nostra riflessione per vedere come continua il discorso di Paolo. Quindi chiedo alla regia di mandare un breve stacco musicale. Riprendiamo ora la nostra riflessione su questo capitolo, il capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, davvero un capitolo molto intenso che ci mette a contatto con l'esperienza di Cristo che Paolo comunica, abbiamo visto, in un contesto particolare che è il contesto del tribunale dove si trova davanti alle autorità romane più in vista della Giudea, quindi il re Agrippa con la sorella Berenice, Festo e tutti i notabili insieme a loro. Abbiamo immaginato questo capitolo come una menorah a sette braccia, scandiremo quindi il discorso in queste sette braccia, di cui abbiamo già visto le prime due, dove Paolo, dopo essersi introdotto, mette al centro qual è il punto della questione e dice: il punto della questione non è il fatto che io non osservo la legge o non rispetto il Tempio, non rispetto Cesare, ma è la speranza in Cristo morto e risorto. Il discorso continua poi nel terzo braccio, dove Paolo fa memoria di quello che lui ha vissuto, cioè di come la sua fede, il suo radicamento nell'ebraismo non era un radicamento formale, ma un radicamento convinto, che è giunto anche a compiere degli atti abbastanza forti. Leggiamo i versetti dal 9 all'11. Io ritenni mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. Così ho fatto a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti. E quando venivano messi a morte, anche io ho dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le torture a bestemmiare, e nel colmo del mio furore contro di loro davo loro la caccia perfino nelle città straniere. Allora, qui in tre versetti Paolo sintetizza la veemenza della sua osservanza alla legge e alla complicità con le autorità del Tempio. Cioè, il suo radicamento nell'ebraismo era un radicamento caratterizzato dallo zelo. Ora, noi vediamo in questi comportamenti con la cultura, il senno di oggi, dei comportamenti accentuatamente talebani, cioè estremisti. Nella mentalità del tempo non erano considerati questi dei comportamenti estremisti, erano considerati dei comportamenti d'onore, perché uno difendeva la purità della legge, soprattutto in un contesto che rischiava di essere mescolato con tanti usi e costumi di natura pagana. Qui, per di più, rischiava di esserci di mezzo un discorso di eresia, perché un uomo, stando alla mentalità ebraica, pretendeva di essere Dio, cioè Gesù di Nazareth pretendeva di essere Dio. Allora, in questo contesto, Paolo dice: guardate che io ero ben convinto di tutte queste cose, cioè il mio radicamento nella legge, nel Tempio, nel mio popolo, erano tali per cui io ho fatto tutte queste cose, cioè ho avuto il permesso dei capi dei sacerdoti, ho chiuso in prigione i fedeli in Cristo, davo il voto perché fossero messi a morte, andavo a cercarli altrove e mi sono spinto anche nelle città pagane. Quello che Luca attribuisce a Paolo negli Atti degli Apostoli e che rispetto alle altre narrazioni risulta particolarmente enfatizzato nel capitolo 26. Noi sappiamo che l'esperienza di Cristo che Paolo fa negli Atti degli Apostoli è narrata per ben 3 volte, al capitolo 9, al capitolo 22 e qui al capitolo 26. Il racconto che noi stiamo leggendo questa sera è il racconto più enfatizzato, dove i colori sono più forti, più vivi, dove il tono è più aggressivo. Come mai? Perché più passa il tempo, più l'esperienza che Paolo ha vissuto ha un impatto sulla sua vita, sugli altri, sulle comunità, perché lui ne vede i frutti, quindi anche il racconto si carica sempre di più di enfasi. Però non è che sia una cosa che il nostro narratore Luca ha inventato. Noi la troviamo testimoniata dallo stesso Paolo in altri passaggi delle sue lettere, ne possiamo menzionare almeno 4. Pensate alla prima lettera ai Corinzi, ad esempio, al capitolo 15, no? Dove Paolo narra il credo più antico, trasmette agli altri quello che anche lui ha ricevuto. Siamo al primo capitolo, al 15° capitolo della prima lettera ai Corinzi, al versetto 9. Dove Paolo dice: ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Qui Paolo lo dice quasi con dolore: io sono l'ultimo che posso essere considerato come testimone del Cristo, no? Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, e fa un gioco sul suo nome. Paolo significa piccolo, no? E quindi dice: come dice il mio nome, io sono il piccolo nella Chiesa, perché l'ho perseguitata. Quindi vedete, in una lettera proto-paolina, cioè scritta da Paolo, viene menzionata la persecuzione. La stessa cosa viene ribadita al capitolo 3 della lettera ai Filippesi, quindi un'altra lettera considerata proto-paolina, dove Paolo nei versetti 7 e 9 dice, richiama decisamente tale esperienza, dice: quelle cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo, anzi ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Cioè Paolo dice: io avevo tutti i motivi di vanto, avevano fiducia in me i sommi sacerdoti, ero pienamente zelante nella legge, ero uno che sapeva argomentare, e lo dimostra anche nel modo in cui scrive le sue lettere, no? Però tutte queste cose sono spazzatura, e il termine sappiamo che è un eufemismo per dire che traduce un termine ancora molto più forte, quindi le considero come spazzatura per essere guadagnato da Cristo. Non è tanto il guadagnare Cristo, ma l'essere guadagnato da Lui, no? Cioè l'essere afferrato da Lui. Quindi un'altra lettera autografa che menziona il cambiamento radicale che c'è stato in Paolo. Oppure possiamo citare un'altra lettera ancora, i Galati, Galati 1, 13, 14, no? Dove Paolo ancora una volta menziona il suo atto persecutorio, dicendo: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Vedete, ci sono gli stessi termini in una lettera scritta da Paolo. C'è la persecuzione, c'è la ferocia, si parla di devastazione e si parla di accanimento, oltre al legame alle tradizioni dei padri. Questi testi che noi troviamo nelle lettere di Paolo, le troviamo anche nelle lettere attribuite a lui, quindi quelle che sono state scritte dopo la sua morte. Ad esempio, nella prima lettera a Timoteo, subito in apertura, Paolo si presenta così: rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero, e si definisce con tre qualifiche, un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Vedete, ciò che Luca narra, non possiamo dire è l'invenzione di uno che ha scritto 20 anni dopo la morte di Paolo. Attenzione, certo, Luca porta la sua testimonianza 20 anni dopo, però riprende una testimonianza di cui Paolo già aveva dato, come dire, aveva messo per iscritto, rivolgendosi alle sue comunità e trattando altre questioni. Ora qua Paolo riprende questo nel contesto del suo dialogo con le autorità ebraiche. Quindi già questo, il terzo braccio della menorah ci dice che ribadisce come Paolo non fosse uno che non ama il giudaismo, ma era ben radicato all'interno del giudaismo, al punto che era così appassionato al giudaismo da aggredire l'esperienza della comunità cristiana. E da questo terzo braccio arriviamo al braccio centrale di questo candelabro simbolico, no? E il braccio centrale della narrazione porta l'evento chiave di Paolo, cioè la rivelazione sulla via di Damasco. Lo troviamo proprio al centro di queste 7 parti di cui si compone il capitolo 26. Allora, leggiamo come Paolo descrive nella sua narrazione l'evento centrale. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo. E io dissi: chi sei, o Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma ora alzati e stai in piedi. Io ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Allora, delle 7 parti di cui si compone il capitolo 26, questa parte centrale, cioè corrispondente al braccio centrale di questo candelabro simbolico, è la parte più lunga. Non solo è la parte più lunga, ma è anche quella che riporta interamente un discorso di Gesù, le parole di Gesù. Vedete come davvero il narratore, Luca è un narratore davvero abile, cioè quando lui racconta le cose le sa proprio presentare bene. Al centro c'è la parola del Signore. E poi si nota anche una certa intensità nel dialogo di Paolo che interpella direttamente il re, gli dice io vidi sulla strada o re una luce dal cielo, cioè attira l'attenzione dell'ascoltatore sull'elemento centrale, e l'elemento centrale è la rivelazione di Cristo, la rivelazione di Cristo che si manifesta con la luce, la voce e la caduta a terra. Questi elementi sono elementi esteriori che manifestano la potenza del nome della rivelazione di Gesù, la potenza della rivelazione di Gesù. Prima di commentare questo aspetto vorrei richiamare anche qui quei testi in cui Paolo fa lui il racconto di queste cose, perché qui, ok, vengono messi in bocca a Paolo, ma è sempre Luca che narra 20 anni dopo. Ora, Paolo aveva già testimoniato qualcosa di questa esperienza e l'aveva fatto ad esempio quando aveva scritto ai Galati. Ai Galati, al capitolo 1, versetti 15-16, Paolo dice chiaramente: quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunziassi in mezzo alle genti, subito, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, Paolo parla dell'evento di Damasco come il momento in cui Dio rivela in lui il figlio suo vivo. Cioè, per Paolo il Vangelo non è altro che l'esperienza del Cristo vivo dentro di noi, che trasfigura ogni cosa. Stesso elemento noi lo troviamo al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, nel grande credo, no? Che abbiamo già evocato prima. Al capitolo 15, versetti 8 e 10, Paolo dice così: ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Sappiamo, no? L'aborto è un essere senza vita e senza forma, perché un bambino viene abortito prima che ricevi la sua forma definitiva, quindi Paolo si definisce così, aveva tutto, la legge, le alleanze, i patriarchi, però era ancora senza vita e senza forma, perché non bastano queste cose per arrivare alla pienezza della vita, come abbiamo ascoltato, diceva l'autore agli Ebrei. Poi aggiunge: per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè, riconosce Paolo che quello che lui è frutto della grazia che ha operato in lui, della grazia che lo ha plasmato. E parla qui di fatica, la stessa fatica che viene raffigurata al capitolo 26 da questo pungolo. Paolo gli dice, Gesù gli dice: Saulo, è duro per te rivoltarti contro il pungolo, cioè seguire quello che il pungolo dice, no? Allo stesso tempo parla di apparizioni nel capitolo 26, perché dice: il Signore gli si rivolge e gli dice: ti ho costituito testimone delle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Cosa sono le cose per cui ti apparirò ancora? Cioè, di che cosa, a che cosa fa riferimento? E qui possiamo trovare una risposta nella seconda lettera ai Corinzi, no? Quindi ancora una risposta autografa di Paolo, dove, difendendosi davanti a coloro che si credono dei superapostoli, perché hanno la capacità di parlare, la capacità di fare miracoli, la capacità di argomentare davanti alla comunità, Paolo si difende davanti a loro perché lo accusano, dicendo che lui invece è sempre in prigione e quindi non ha la benedizione del Signore, dicendo: guardate, anch'io ho motivi di vanto. E tra i motivi di vanto cita, anche se dice, lo cito perché mi avete costretto, cita le apparizioni e dice: se bisogna vantarsi, anche se non converrebbe, verrò alla via delle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo, parla in sé di terza persona, quell'uomo chiaramente è Paolo, no? So che un uomo in Cristo, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, ma lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me, o mi giudichi per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Cioè, quando Gesù dice a Paolo nel terzo racconto quelle per cui ti apparirò ancora, viene giustificato, in un certo senso viene provato da questa lettera di Paolo, dove Paolo dice: guardate che io l'esperienza di fondo mia centrale è l'esperienza sulla via di Damasco, ma ho avuto molte altre rivelazioni, molti altri momenti di grazia, però non sono quelli gli elementi di cui vantarsi. Quello di cui bisogna vantarsi sono le debolezze che permettono al Cristo crocifisso di vivere in me e di continuare a far fluire il sangue del suo amore. Come dirà nella lettera ai Colossesi, io porto a compimento le sofferenze di Cristo, non perché Gesù non ha sofferto abbastanza, no, ma perché l'amore che ha abitato quelle sofferenze può continuare a estendersi nel mondo. E allora capite che qui viene messo al centro del discorso, al centro di questa menorah simbolica, di questo candelabro simbolico, l'esperienza sulla via di Damasco, dove Gesù si rivela come colui che vive nei suoi, colui che vive nella comunità perseguitata. E proprio perché lui vive nella comunità perseguitata, rende quella persecuzione un luogo fecondo, al punto tale che trasforma Paolo da persecutore a ministro e testimone di questa esperienza. Ecco, carissimi, lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo da darvi la possibilità di rileggere i versetti dal 9 al 18 che ci portano al centro di questa nostra menorah. Dopodiché faremo il rush finale di questa nostra conversazione, cioè vedremo le ultime tre braccia della menorah che ci mostrano un po' la reazione degli ascoltatori al discorso di Paolo, che comunque ha messo bene in evidenza ciò che sta al centro della sua esperienza. Quindi chiedo alla regia di darci ancora un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo la nostra riflessione. Riprendiamo quindi il nostro confronto con il capitolo 26 degli Atti degli Apostoli che stiamo dipingendo come una simbolica menorah, un candelabro a sette braccia. Abbiamo visto poco fa come il braccio centrale di questo candelabro simbolico è l'esperienza sulla via di Damasco, dove Paolo incontra il Cristo come qualcuno che vive nella comunità perseguitata e lui stesso ne fa esperienza. Bene, il discorso continua mostrando i frutti di questa rivelazione sulla via di Damasco ed è racchiuso nei versetti dal 19 al 23. Perciò, o re Agrippa, Io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandovi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei, mentre ero nel Tempio, mi presero e tentavano di uccidermi. Ma con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro affermando se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che, primo tra i risorti da morte, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. Allora, qual è il frutto dell'incontro sulla via di Damasco? Il frutto dell'incontro sulla via di Damasco è ripercorrere le strade precedenti, quelle che abbiamo visto nel terzo braccio della menorah. Paolo percorreva certe vie per perseguitare, le stesse vie vengono ora percorse non più per perseguitare ma per illuminare. E vengono menzionate, sono le stesse vie di prima, Damasco, Gerusalemme, la Giudea, fino alle nazioni esterne, cioè è proprio sintomatico, no? Ciò che prima era vissuto con violenza ora viene vissuto portando luce. Paolo è diventato luce delle genti. E in questa cornice lui dice, qui avviene l'arresto, qui io sono stato catturato e messo in prigione e questa prigione è durata 2 anni intero e ancora adesso vogliono uccidermi, perché io porto la testimonianza del compimento della promessa. E questo compimento della promessa obbliga un pochino a rivedere tutto il nostro modo di rapportarci alla legge, al culto, a Cesare, al Tempio. Questo non riescono i giudei ad accettare. E poi fa un'applicazione all'Antico Testamento, quando dice che in fondo però sia i profeti, sia Mosè, per Mosè intendiamo il Pentateuco, quindi i primi 5 libri della Torah che si credeva fossero stati scritti da Mosè, avevano però annunciato tutto questo, che cioè chi il Messia in prima persona e coloro che ne portano l'annuncio devono comunque passare attraverso la prova del rifiuto. A chi fa riferimento Paolo quando dice Mosè? Cioè di chi Mosè ha parlato nei primi 5 libri della scrittura che ha vissuto questa esperienza? Ma ce n'è più di uno. Mosè stesso in prima persona. Sappiamo che Mosè si fa così tanto carico del popolo che non entra lui nella terra promessa, condivide la situazione del popolo peccatore, no? Ma chi entrerà nella terra promessa saranno altri, lui la vede solo da lontano. Ma è probabile che si faccia riferimento anche a un'altra figura chiave dell'Antico Testamento, della Torah, che è la figura di Giuseppe, il patriarca. Colui che venduto dai suoi fratelli divenne però poi causa, motivo della loro tutela, della loro custodia in tempi di carestia e diventa addirittura colui che raduna i figli dispersi di Giacobbe. Così all'epoca dei profeti potremmo pensare a profeti come Isaia, pensate ai testi che di Isaia leggiamo nel tempo, in questo tempo quaresimale, i testi del servo sofferente. Sono tutti testi che anticipano come il Messia è paragonato a un servo che annuncia, testimonia il Vangelo, ma passa attraverso l'esperienza della prova. Oppure Geremia stesso è un profeta di cui perdiamo le tracce, lui che è contrario alla fuga in Egitto viene portato a forza, con violenza, in Egitto e non sappiamo più niente di lui. È un profeta che vive il dramma del popolo. Elia che inizia come una persona violenta, decisa, forte ad ammazzare l'idolatria di Baal e poi lo troviamo alla fine spoglio, provato. Sul monte di Dio l'Oreb alla ricerca del vero volto di Dio che si manifesterà a lui in un soffio silenzioso e passeggero. Quindi dietro queste esperienze, dietro questa rilettura della storia della salvezza, che Paolo vede nella sua esperienza un'esperienza comunque non di morte ma di vita. E testimonia davanti ad Agrippa e a Festo che persino la sua prigionia non è nient'altro che l'attualizzazione di queste pagine della scrittura. Cristo è vivo e in lui vive queste pagine della scrittura. Arriviamo quindi al sesto braccio di questa simbolica menorah, di questo candelabro, dove vediamo la reazione delle autorità. E la reazione è descritta nei versetti 24-29. Mentre egli parlava, così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo, la troppa scienza ti ha dato al cervello». E Paolo: «Non sono pazzo», disse eccellentissimo Festo, «ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, ai profeti? Io so che tu credi». E Agrippa rispose a Paolo: «Ancora un poco e mi convince a farmi cristiano». E Paolo replicò: «Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventino come sono anche io, eccetto queste catene». Vedete, in questo sesto braccio del candelabro, Paolo viene giudicato in un certo modo, ma questo non attutisce la testimonianza di Paolo, non l'attenua. Paolo viene giudicato pazzo. Ora, questa accusa che Paolo riceve e che Luca scrive e mette sulle labbra di Festo è una delle accuse che troviamo più frequenti rivolte contro Paolo nelle lettere. Cito alcuni passaggi, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi. Seconda lettera ai Corinzi, noi andiamo al capitolo 11, versetti 1-2 e ci troviamo subito confrontati con questo tipo di accusa. Al capitolo 1-2 dice Paolo: «Se soltanto poteste sopportare un po' di pazzia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promesso infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo». Qui è Paolo stesso che dice, cioè: «Il mio legame appassionato a Cristo è tale che mi porta ad essere considerato pazzo da alcuni di voi». O ancora i versetti da 16 a 17. «Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri pazzo, se no ritenetemi pure come un pazzo, perché anch'io possa vantarmi un poco. Quello che dico però non lo dico secondo il Signore, ma da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare». Cioè, prima di fare l'elenco di tutti i suoi meriti, dice: «I meriti li ho ottenuti solo perché sono pazzo per Cristo, però non considerate questi meriti, considerate l'amore che Cristo ha per me». E poi riprende il tema anche al capitolo 12, quando dice: «Io mi compiaccio nelle mie debolezze, quando sono debole allora che sono forte, sono diventato pazzo, ma siete voi che mi avete costretto. Infatti io avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono per nulla inferiore a quei super apostoli, anche se io personalmente sono un nulla». Vedete, quando Paolo è giudicato da pazzo, Paolo dice: hai ragione, sì, sono pazzo, ma sono pazzo per Cristo. Non sono pazzo di testa, sono ben cosciente di quello che dico, però ho imparato a rileggere ogni cosa in Cristo. E nella risposta Paolo coinvolge il re Agrippa dicendo: «O re, tu credi ai profeti, vero? Io so che tu ci credi». E Agrippa, per divincolarsi da questo coinvolgimento, risponde dicendo: «Per poco tu mi fai diventare cristiano». E Paolo dice: «Non è questione di diventare cristiano o meno. La questione di fondo è avere il Cristo vivo dentro di sé. In questo io ti auguro di essere come me, non per queste catene, cioè di essere una persona comunque libera, ma di avere il Cristo vivo dentro di sé. E allora vedete come l'annuncio di Paolo si arricchisce. Se nel secondo braccio della menorah Paolo aveva evocato il radicamento della sua vita ebraica, nel penultimo braccio, che fa da corrispondente in questa simbolica menorah, menziona il radicamento della sua vita cristiana, cioè la vita in Cristo. E arriviamo alla fine di questo discorso. Se l'inizio aveva visto l'ingresso in scena un po' pomposo di Festo, di Agrippa, di Berenice, l'ultimo braccio evoca la loro uscita di scena, che dice così: allora il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. Andandosene conversavano tra loro e dicevano: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Cioè il testo conclude, questo grande capitolo termina, sottolineando il fatto che Paolo non è colpevole. Paolo non è colpevole. Ed è interessante perché prima Felice, poi Festo, ora Agrippa, tutti riconoscono l'innocenza di Paolo e nessuno trova un motivo valido per metterlo a morte. Addirittura si trovano nell'imbarazzo di non sapere cosa scrivere all'imperatore. Però cosa succede? Luca ci sta dicendo che per Paolo si sta verificando quello che era successo durante il processo verso Gesù, dove per tre volte Pilato aveva dichiarato l'innocenza di Gesù. Ora qui per tre volte l'autorità romana dichiara l'innocenza di Gesù, dichiara l'innocenza di Paolo, tre volte, proprio come Gesù, per dire che davvero il Cristo vive nell'esperienza di Paolo. E davvero il Cristo continua a lasciar trasparire la sua forza di vita e la sua forza d'amore attraverso la vita di questo grande apostolo. Dicevo prima che siamo di fronte al terzo racconto della conversione dell'Apostolo Paolo, nel senso che questo racconto noi lo troviamo riportato negli Atti degli Apostoli per tre volte, al capitolo 9, al capitolo 22 e qui al capitolo 26. Come mai Luca, in un'opera che comunque vuole raccontare gli inizi della comunità cristiana, mette tre volte il racconto della rivelazione sulla via di Damasco, proprio per sottolineare l'impatto che questo ha sulla vita della comunità cristiana. Paolo diventa luce dello sviluppo della comunità cristiana proprio perché il Cristo in lui dà il via a una nuova forma di spiritualità. Non si tratta di seguire un maestro. Se io seguo il maestro è di fronte a me e io sto dietro, ma si tratta di lasciar vivere il Cristo dentro di noi e di permettere al Cristo di abitare ogni nostra realtà, perché la potenza della croce possa fluire. E se voi notate, i tre racconti ripetuti della rivelazione sulla via di Damasco avvengono tutti e tre in contesti diversi. Il primo sulla strada, raccontato da Luca. Quindi la strada è il luogo dove passano tutti, quindi è un po' il primo annuncio universale. Il secondo avviene nell'area del Tempio ed è rivolto alle autorità giudaiche, con un linguaggio giudaico. Il terzo avviene nel Tribunale Romano, quindi in un contesto pagano, dove Paolo sottolinea soprattutto il fatto di essere posto per portare il Vangelo non solo agli ebrei, ma a tutti i popoli, perché il Cristo diventi luce delle genti. Quindi capite bene che anche la triplice narrazione ha una valenza strategica, cioè Luca vuole sottolineare come l'annuncio cristiano interpelli tutte le figure e sia stato portato da Paolo, proprio grazie alle sue catene, in tutti gli ambienti, per strada, nel Tempio, e davanti all'autorità romana. Ovviamente Festo, Agrippa e Berenice non si rendono conto, dicono, beh, non era il caso, potevamo liberarlo se non si fosse appellato a Cesare. Ma dietro questo c'è la promessa di Gesù che in visione, quando era stato messo in prigione anni prima, gli aveva detto, come mi hai reso testimonianza a Gerusalemme, ora è necessario che tu mi renda testimonianza a Roma. Cioè, ciò che gli uomini non sanno leggere, sotto c'è un disegno di Dio, che vuole fare di Paolo luce delle nazioni, perché? Perché lui porta il Cristo vivo dentro di sé. E tutto questo non abbandona l'Antico Testamento, ma riprende proprio l'immagine del servo sofferente di Isaia, chiamato ad essere luce delle genti. Qui noi lo vediamo riattualizzato nella figura dell'Apostolo Paolo. Eccoci quindi, cari ascoltatori, giunti alla fine della nostra trasmissione, della nostra conversazione di oggi. Abbiamo ripercorso il capitolo 26 per intero, immaginando questo capitolo come un grande candelabro a sette braccia, dove il braccio centrale è rappresentato dalla rivelazione sulla via di Damasco, mentre le altre braccia di questa menorah portano l'annuncio, la testimonianza, l'allargamento del Vangelo alle diverse parti degli ascoltatori. Ecco, come vi dicevo all'inizio, quest'oggi non abbiamo la possibilità di dialogare attraverso le domande, ma vi lascio un piccolo esercizio che può essere utile al nostro percorso quaresimale, che è questo, cioè provate a rileggere questo capitolo 26. Provate a rileggerlo proprio pensando a queste sette braccia di un candelabro simbolico, no? E chiedendo, ma l'esperienza che Paolo ha fatto di Gesù, a me cosa dice? Qual è l'esperienza che tu, Signore, vuoi vivere dentro di me? Soprattutto in questo tempo in cui ci confronti con l'immagine del servo sofferente, l'immagine della croce e la potenza della risurrezione. Ecco, su questo sfondo, cari ascoltatori, auguro a tutti voi un fecondo cammino di Quaresima e ci risentiremo in occasione della Settimana Santa per continuare la nostra riflessione sugli Atti degli Apostoli. Auguro a tutti voi la benedizione del cielo e una buona meditazione sul testo degli Atti degli Apostoli. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.